Ciao, dritto dalla riviera per voi, signor Genosa. RTC Crew, gente seria che non riposa. Non so se è stato il caso o il destino oppure il fato, ma sto bene tra i b-boy e per le rime son malato. Sono nato sopra il beat, a dir poco appassionato. Musica black hip hop, è così che son cresciuto, in mezzo a persona cui un gran bene ho voluto, ma che poi mi hanno fregato e ci son rimasto scottato. È per questo che ho poca fiducia nella gente, perché se ti incula uno a cui vuoi bene intensamente, pensi a cosa potrebbe farti chi non conosce, e ti costruisce un muro che indossi quando esci. Perché c'è gente del cazzo là fuori, devi saperlo, cara amica mia, no, mai dimenticarlo. Ne indosso le ferite, ne porto ancora i segni, affinché io abbia vendetta, è ora che mi impegni. No no no no no no no no, non mi puoi fermare, finché avrò voce io continuerò ad urlare. RTC Crew, gente seria che non riposa, in tutto il mondo sulle mani per Genosa. No no no no no no no no, non mi puoi fermare, finché avrò voce io continuerò ad urlare. RTC Crew, gente seria che non riposa, in tutto il mondo sulle mani per Genosa. Non accetto sto contesto e contesto con molti sforzi, a terra vedo tanta merda intorno a me, fin troppi stronzi. Non accetto certe cose che ormai me l'han fatto a fette, e le persone a cui voglio bene me le tengo ben strette. Rifletto su frasi che trascrivo in rima su un foglio, tipo fidarsi è bene e non fidarsi ancora meglio. Persone diverse sotto molti aspetti uguali, il difficile fluire dei rapporti sociali, troppe volte a faccia mia hanno indurito il cuore. Infatti ora quando pompa emette uno strano rumore, tipo il ticchettio delle bombe già innescate. Un'altra delusione, poi amarezza giù a cascate, con l'acido che dallo stomaco arriva al cervello, trasuda dalla pelle e fai la fine di Otello. Non sarò più ferito, ci potrei giurare, se ci sarà il pericolo sarò il primo a sparare. No no no no no no no no, non mi puoi fermare, finché avrò voce io continuerò ad urlare. RTC Crew, gente seria che non riposa, in tutto il mondo sulle mani per Genosa. No no no no no no no no, non mi puoi fermare, finché avrò voce io continuerò ad urlare. RTC Crew, gente seria che non riposa, in tutto il mondo sulle mani per Genosa. Ho perso l'asso di denari per salvarmi dal collasso, è sempre lo stesso sasso che lanciato troppo in basso. Non c'entra il suo obiettivo ed un altro vetro infrange, un altro tentativo a vuoto e una persona in più che piange. Di questo infausto meccanismo siamo tutti schiavi, solo che c'è chi ci sta male, chi si ingozza piene mani. Quasi tutto ciò che luccica è merda e non è oro, la fabbrica dei falsi amici è sempre al lavoro. Persone false come Giuda ti baciano sulla guancia, ma è solo per riuscire ad accoltellarti in pancia. E allora se sei furbo state picchiare per primo, è questo ciò che penso ed è questo ciò che rimo. È un mare di merda ed io non mi voglio sporcare, ci sono troppi squali che mi vogliono affogare. Ho talmente tanta rabbia da riempirne edifici, non sai quanto è lunga la lista dei miei falsi amici. No no no no no no no no, non mi puoi fermare, finché avrò voce io continuerò ad urlare. RTC Crew, gente seria che non riposa, in tutto il mondo sulle mani per Genosa. No no no no no no no no, non mi puoi fermare, finché avrò voce io continuerò ad urlare. RTC Crew, gente seria che non riposa, in tutto il mondo sulle mani per Genosa.